Riaprono le porte del Teatro dell'ABC con tre appuntamenti nell'ex cinema di Piazza di Porta Castiglione 3, tra poesia, jazz e lirica a cura di Guglielmo Pagnozzi, Valentino Corvino e Gabriele Via. Partiamo e parliamo con Guglielmo Pagnozzi. Quella di domani sarà una lezione concerto, un'occasione didattica e musicale. Quindi come si svolgerà? Insieme ad Emiliano Pintori, che è un giovane bravissimo pianista di jazz bolognese, e da due anni ormai o più, tranne le pause dovute diciamo ai lockdown vari, presentiamo queste lezioni concerto su argomenti legati alla storia e ai personaggi del jazz, appunto al Teatro dell'ABC a Porta Castiglione. E sono un po' divise a metà, diciamo che c'è una parte introduttiva molto divulgativa in cui presentiamo e sviluppiamo un po' le tematiche della serata. Per esempio domani sera, mercoledì, ci sarà la serata sarà dedicata a Thelonious Monk, per cui parleremo di Thelonious Monk, cercheremo di dare degli elementi fruibili un po' per tutti, per chi si approccia sia le prime volte a questo genere di musica, sia magari qualche cosa interessante, qualche notizia, informazione interessante anche per chi è già appassionato, sia aiutiamo mostrando dei video che a volte riusciamo a trovare in rete e facendo ascoltare anche degli esempi musicali originali, magari degli ascolti di dischi, e cerchiamo così di introdurre il pubblico nel mondo di questo artista, o a volte fare cose monografiche su un artista, lo facciamo magari su dei periodi del jazz o degli stili. Dopodiché, insieme ad altri musicisti, che spesso cambiano, perché cerchiamo di far circuitare un pochino tutti i bravissimi musicisti, soprattutto i giovani musicisti di jazz che ci sono a Bologna, ecco, dopo questa introduzione diciamo divulgativa, suoniamo un repertorio inerente all'argomento. Quindi mercoledì suoneremo le composizioni, alcune composizioni di Thelonious Monk. Siamo in quartetto, siamo io al sax, Emiliano Pintori al pianoforte, Andrea Grillini, il batterista di Bologna, bravissimo, alla batteria appunto, e Filippo Cassanelli, un altro giovane bassista eccezionalmente bravo. Sarà quindi quella di mercoledì una serata alla scoperta di Thelonious Monk, che è stato appunto un grande jazzista e protagonista della musica afroamericana. E ci vuoi raccontare un po' qual è stato il suo percorso musicale, il sentiero che lo ha portato ad essere un artista di così grande rilievo? Di Thelonious Monk, beh, adesso senza anticipare troppo quello che andremo a dire durante la serata. Thelonious Monk è stato un innovatore della musica jazz proprio nella metà del secolo scorso, esattamente nella metà del Novecento, negli anni 50, subito dopo diciamo la Seconda Guerra Mondiale, la fine della Seconda Guerra Mondiale, si sviluppava a New York un genere musicale nuovo riguardante il jazz, che ricordiamoci all'epoca era una musica di diffusione di massa, ecco, era una musica anche molto popolare che aveva anche tutta una produzione ultra commerciale di jazz, insomma era una musica che si ascoltava ovunque, ecco, il rock and roll non era ancora nato, stava nascendo per dire, ecco, quindi il jazz era veramente una musica popolare e diffusa in tutto il mondo, che esisteva da tanti anni ed era un linguaggio già con una sua diciamo identità molto forte, con delle caratteristiche precise. Ebbene, questi rivoluzionari a New York tra la fine degli anni 40 e la prima metà degli anni 50 inventano un nuovo stile che si chiama bebop, da cui nasce anche poi tutto un modo di vivere, una filosofia di vita, un approccio estetico anche alla vita, e Thelonious Monk dice ha dato un po' quello che ha inventato i nuovi lemmi, la nuova sintassi insomma di questo genere musicale, insieme ad altri grandissimi che sono Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Diciamo questa triade proprio in quegli anni suonava insieme nei localini della 52esima strada, un po' come se a Bologna quando era tutto aperto, non so, ci si trovava al binario 69 e alcuni musicisti un po' sperimentatori sperimentavano, perché si trovavano lì, avevano l'occasione con la complicità dei locali di fare un po' di musica sperimentale. Ecco, questo è quello che è avvenuto in quegli anni a New York, e Thelonious Monk è stato un protagonista, una personalità molto particolare, una persona a cui poi alla fine è stata diagnosticata dai posteri d'analisi postume, una sindrome bipolare fortissima, che era quello che da una parte gli dava una genialità e dall'altra lo rendeva anche un personaggio così, un po' particolare nello scenario. Veniva chiamato Mad Monk, il monaco matto, perché faceva delle cose un po' strane, diciamo così. È sempre stato povero, tutti questi musicisti non hanno mai fatto i soldi con la grandezza della loro arte, però ha avuto molti riconoscimenti lui, almeno in vita, perché insomma è riuscito a sopravvivere a tanti altri che se ne sono andati prima di lui. Tutta l'ultima parte della sua carriera comunque era acclamato in tutto il mondo, era stato riconosciuto il suo genio. Se oggi andiamo su Google o su Spotify, mettiamo Thelonious Monk, esce una marea di roba e viene assolutamente riconosciuto come uno dei grandi geni della musica del Novecento. Infatti Monk non solo è stato una figura che appunto ha dato voce alla musica del Novecento, ma si dirama ancora fino ad oggi l'impatto della sua musica. E come è vissuto nella nostra contemporaneità? Come si apre a noi oggi? Domanda interessante. Interessante proprio per la risposta. Ecco, c'è da dire che Monk è uno di quegli autori, per i musicisti di jazz, eterni. Cioè, come non so, per un musicista di musica classica è impossibile non confrontarsi con Mozart, per esempio, o con Beethoven. Ecco, Monk per il jazz è la stessa cosa. Di più, è quasi un po' una Bibbia del prima di Monk e il dopo Monk, un po' come Charlie Parker. Quindi, per la nostra contemporaneità, noi musicisti di jazz nel nostro repertorio abbiamo sempre tantissimi brani di Thelonious Monk, perché sono brani che ti obbligano a fare un approfondimento di studio anche sul linguaggio jazzistico molto utile, e sono brani che hanno una loro costruzione, diciamo, armonica, sono parole un po' tecniche, comunque insomma sono composti in modo tale da essere dei veri vasi di Pandora. Insomma, puoi trarre ispirazione sia per gli studi che per nuove composizioni, per sviluppare linguaggi ancora oggi. Quindi dal punto di vista della composizione, diciamo che Monk è un po' un faro, una guida. E poi è un autore che mette d'accordo tutti, cioè Monk tra tutti i jazzisti, che suonanti, che poi si dividono in quelli che vogliono fare il moderno, quelli che invece solo il tradizionale, no? A volte ci sono anche delle diatribe, e beh, Monk comunque piace sempre a tutti e mette sempre d'accordo tutti gli artisti, per cui ancora oggi emana la sua grande personalità, continua a dare a tutti noi ancora oggi, come se fosse vivo praticamente. Ecco. Allora ci vediamo 24 novembre alle 20:45 e all'ex cinema di Porta Castiglione numero 3. Grazie mille. Sì, grazie infinite. Ciao a tutte e a tutti. Ciao.